le notti dorate, l'innocenza, l'anarchia sono finite, sono state messe via. Come si sente chi ci crede se non stupida, una stupida fatalità. Innamorarsi quando è davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti e non lo devi nominare, perché lui è, lui è un esibizionista. Sesso e varietà, bello come una specie estinta. Viene e se ne va, succede alle ragazze per bene. Non cadrò nel cliché, lui è un esibizionista. Per carità, non avvicinarti e non lo devi.